in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha un titolo fortemente economico e slegato un po' dagli altri titoli economici che sono invece molto connessi alle dichiarazioni fatte a Parigi dai vari leader europei. Il Sole 24 Ore punta sulla decisione che c'è stata due giorni fa in Europa, presa da Mario Draghi, di tenere i tassi a zero, e titola: l'Europa a tassi negativi aspetta la risposta Fed, perché mercoledì anche la Federal Reserve, la banca centrale americana, dovrà decidere sulla eventuale rialzo dei tassi, ma è possibile che questo rialzo venga rinviato a giugno. I mercati puntano quindi sul rinvio del rialzo degli Stati Uniti. Molte le analisi su questi scenari. Moira Longo cerca di spiegarci cosa potrebbe essere tutta la parte di speculazione sui mercati, quindi euforia e rischi sistemici. Trovate poi il resto a pagina 2, mentre Carlo Bastasin: la deflazione ora fa meno paura. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore un altro dibattito, questa volta non sui tassi di interesse ma sul fisco. Da una parte la rotta tracciata per un fisco più equo di Salvatore Padula, che è il vice direttore del Sole 24 Ore ma anche responsabile e grande esperto di tutta quest'area fiscale, e poi una lettera inviata al Sole 24 Ore, al direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, da Massimo Giannini, intitolata "Ma dove si vuole portare davvero la nave del fisco", che prende un po' lo spunto da un intervento che c'era stato sul Sole 24 Ore di Gianfranco Ravasi, che era tornato su un tema importantissimo in Italia, che è quello della visione a breve periodo della classe dirigente, anche quando si prendono decisioni in materia di fisco. La lettera al risparmiatore, come ogni domenica, di Vittorio Carlini, si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è Elica. Elica scommette sul Nord America, Internet delle cose, nuova frontiera. Questa è la traccia di sviluppo dell'azienda che opera nel settore dell'arredo design. La prima pagina del Corriere della Sera ha una fotonotizia dedicata alla valanga che ha travolto degli sci alpinisti, e ora i soccorsi sono praticamente terminati, quindi il bilancio dovrebbe essere quello appunto di 6 morti, 6 sci alpinisti sepolti dalla neve a 3.000 metri. Ma come vi dicevo, molta cronaca dal vertice di Parigi, il vertice a cui ha partecipato anche Matteo Renzi, dei leader dei socialisti europei. Strappo di Parigi sui migranti, Ankara si fermi. Questo è il focus del Corriere della Sera, perché come è giusto che sia, erano tanti i temi sul tavolo di questo vertice, anche quello dell'immigrazione. Il premier italiano, sottolinea il Corriere della Sera, ha anche fatto questa dichiarazione a proposito dei vertici europei: sono un po' troppi, uno ogni 15 giorni. L'analisi di Federico Fubini, il collante Merkel-Draghi che tiene insieme l'Europa. Proprio l'altro giorno sentivo Giovanni Di Lorenzo, direttore del settimanale tedesco di Zeit, che cercava di spiegare ai telespettatori di Lili Gruber che non esiste in realtà una Merkel cattiva che ce l'ha anche con Draghi in quanto italiano. Anzi, è proprio questo asse tra Angela Merkel e il governatore della BCE Mario Draghi che in qualche modo tiene da autorevolezza alle politiche della banca centrale, che sapete sono spesso contestate dalla Bundesbank, che è la banca centrale tedesca. C'è un titolo e poi anche alcuni editoriali che poi trovate all'interno del Corriere della Sera, quindi una lunga cronaca, questo volevo dire, su quella che ieri è stata la lite tra Renzi, Matteo Renzi e la minoranza, perché al mattino era a Parigi, Matteo Renzi poi è rientrato e è andato alla scuola politica del PD e ne ha approfittato per rispondere alle accuse che gli ha lanciato soprattutto Massimo D'Alema negli ultimi giorni. E il commento in questo caso è di Pierluigi Battista: c'eravamo tanto odiati. La prima pagina della Repubblica ha una fotonotizia ancora diversa, è quella che trovate anche su altri giornali, di un neonato che è nato ieri nella tendopoli di Idomeni in Grecia. Tendopoli nel senso che sapete che al in questa località in particolare della Grecia c'è uno dei tanti campi profughi di migranti che aspettano dalla Grecia di andare oltre, di andare in altre località europee. Quel bambino nato nel fango ai piedi del nuovo muro, il reportage di il commento di Melania Mazzucco, che è una scrittrice che prende, ma vincitrice anche del Premio Strega, che prende a spunto appunto da questa vicenda per un po' farne il simbolo anche di quello che sta succedendo in Europa e di come poi sostanzialmente la vita appunto si faccia strada anche in questi luoghi, tant'è che nella foto vedete anche il padre che lo pulisce con una bottiglia d'acqua e alle spalle di questo bambino, di questo neonato, la madre e una bambina che lo guarda sorridente come per ammirare appunto il miracolo della vita. Il titolo principale di Repubblica però anche in questo caso è dedicato al summit dei leader di sinistra che si è tenuto a Parigi. In questo caso il titolo, a differenza di quello che fa il Corriere che puntava sull'immigrazione, è strettamente economico: basta austerity, ora l'Europa deve investire. Questo è il messaggio che arriva appunto da questo vertice europeo. In prima pagina anche un richiamo a un articolo che poi trovate all'interno, perché Roberto Saviano ha trovato l'ennesimo modo per così rendersi protagonista, possiamo dire così. Sapete che io sono un po', non so, a volte un po' critica a questa, quella che mi sembra una mania di protagonismo di Roberto Saviano. Questa volta è andato a fare una partita di scacchi con Kasparov, il campione di scacchi russo, perché che tra l'altro ha appena pubblicato un libro in uscita in Italia, Io e Kasparov, scacco ai dittatori. Questo è il titolo della cronaca che poi Saviano fa di questa partita di scacchi con Kasparov. Il Messaggero, Renzi sinistra e guerra aperta, quindi il Messaggero sceglie proprio di titolare su quello che vi dicevo, la polemica ennesima tra il Premier e altre parti del suo partito. Nel sommario sostanzialmente la frase più forte di quella che è stata la replica di ieri pomeriggio di Renzi, il Premier: non prendo lezioni di a chi ha distrutto l'Ulivo, che sarebbero naturalmente D'Alema e in certa misura Bersani. E poi vi segnalo, per chi ha il coraggio di leggere questi resoconti, come mi ha detto una collega qualche giorno fa, dopo averli letti uno può anche avere degli incubi. Mi riferisco naturalmente alla cronaca di del delitto Varani, il ragazzo Luca Varani ucciso tra molte virgolette per gioco, per vedere che cosa si provava, da Marco Prato e Manuel Fofo a Roma. E il Messaggero ha le prime due pagine dedicate a questo fatto di cronaca che è successo appunto a Roma, perché una giornalista è andata in cella dai killer di Luca e ha raccolto questa dichiarazione, che poi trovate anche su molti altri giornali, perché uno dei due, Manuel Fofo, appunto ha cercato in qualche modo di giustificare il delitto, dicendo che in realtà lui da sempre voleva uccidere suo padre, anche perché per esempio a 18 anni non gli aveva comprato la macchina che tanto lui desiderava, ma un'altra macchina. La stampa prosegue con questa, sotto un po' la direzione di Maurizio Molinari, ha sempre delle inchieste molto particolari. Ricorderete domenica scorsa, due domeniche fa, una sulla gravidanza surrogata, questa settimana è sull'adozione. Ogni tre giorni restituito un bimbo, questo è il titolo di apertura. Così falliscono le adozioni in Italia. Ci fermiamo però un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo e ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Vi dicevo, l'apertura della stampa, che è dedicata a un'inchiesta esclusiva della stampa che poi trovate a pagina 2 e 3 sul tema dell'adozione, in particolare delle adozioni internazionali, con dei dati interessantissimi. Si scopre per esempio che l'Italia è il secondo paese al mondo per adozioni dopo gli Stati Uniti, con 36.908 all'anno. Il paese da cui provengono la maggior parte dei bambini, questi bambini stranieri che vengono adottati in Italia, è la Russia. E ci sono poi una serie di considerazioni su quello che viene definito il fallimento dell'adozione, cioè questo fatto che ogni tre giorni viene restituito un bambino allo Stato, quali possono essere le cause, per esempio il fatto che ci sono troppi enti che si occupano di adozioni internazionali in Italia e che non c'è in realtà una vigilanza. Questa un po' l'inchiesta, la fotografia della Stampa. La prima pagina dell'Unità, il titolo è "Finita la guerra di Troika", quindi il riferimento è al vertice di Parigi di cui dicevamo. Dopo Mario Draghi, il vertice di Parigi del PSE, cioè del Partito Socialista Europeo, e finisce con questa, quella che viene, appunto, secondo l'Unità, in una visione un po' ottimistica, definisce appunto la fine della guerra della Troika, abbiamo visto, con questo deciso no alle politiche di austerity. Un accenno anche alla guerra interna al PD, con il virgolettato di Renzi che abbiamo visto anche su altri giornali: niente lezione di chi ha distrutto l'Ulivo regalandoci Silvio Berlusconi. Poi un intervento di Deborah Serracchiani, che è vicepresidente del Partito Democratico e nonché governatore del Friuli Venezia Giulia, perché D'Alema gioca a perdere. L'Avvenire ha un'apertura ancora diversa, che ci ricorda, come poi vedremo anche su Repubblica con un altro tipo di servizio, ci ricorda che sono 5 anni oggi di guerra civile in Siria. Il conflitto ha provocato 12 milioni di sfollati ad Aleppo, la città martire. Ci sono però segnali di ripresa. Sapete che dall'ultimo vertice che c'è stato a Ginevra è uscita una specie di tregua, e quindi L'Avvenire appunto ricorda: Siria ferita aperta, 270.000 le vittime accertate, speranza dalla tregua. E poi naturalmente uno speciale con tante pagine sui 3 anni del pontificato di Papa Francesco. Era il 13 marzo 2013 quando appunto dal conclave venne la famosa fumata bianca, che voleva dire "Habemus Papam". Il giornale "Berlusconi non molla", il riferimento è alla quello che ha fatto Berlusconi ieri a Roma, che ha girato un po' per questi gazebo dove si poteva e si può fare anche oggi dire sì o no alla candidatura di Bertolaso a sindaco di Roma. E il titolo, appunto, "Berlusconi non molla, al centrodestra si conta, tensione alle stelle con Salvini e Meloni, ma il candidato sindaco a Roma per Berlusconi resta Bertolaso". E poi vi segnalo dalle pagine interne, lo vedremo, abbastanza divertente, di Luigi Mascheroni nel supplemento controcultura del giornale: "Eco e Scalfari, i sopravvalutati che infestano la letteratura". Insomma, una visione un po' polemica di questo critico. Il Libero ha un titolo ancora diverso su un importante cambiamento che è stato appena introdotto nel mondo del lavoro, che è quello sui premi di produzione, che verranno detassati, e poi c'è una possibilità di dimettersi per via telematica. Premi produzione più ricchi, ma da oggi dimettersi costa. Finalmente diventa operativa la detassazione, totale o parziale, dei guadagni extra. Però entra in vigore pur una cervellotica e dispendiosa procedura per lasciare l'azienda. Dicevamo, l'anniversario del pontificato di Bertoglio, poteva Antonio Socci lasciarsi sfuggire questa occasione per parlare male di Papa Francesco? La risposta ovviamente è no, e quindi il titolo del suo pezzo sulla prima pagina di Libero, che poi trovate a pagina 15, "I 3 anni di Bergoglio, un Lutero in affitto, il pontificato che rischia di demolire la Chiesa". Il Manifesto ha un titolo ancora diverso, che è dedicato a un fatto di cronaca successo a Bologna, con questa protesta di un writer che si chiama Blue, piuttosto che vedere il suo murales staccato e messo in una mostra organizzata dal comune di Bologna, questo street artist lo ha di fatto demolito e ha così lanciato quella che forse è più una provocazione, fa parte un po' degli street artist più più puri nelle loro convinzioni, quello appunto di sostenere che le loro opere non devono finire nei musei ma devono restare nelle strade, quindi piuttosto che nei musei distrutta. Quindi il titolo del Manifesto, appunto, la questione murale. Il Fatto Quotidiano, ancora un titolo diverso, sempre un attacco a Renzi, però dico sempre perché spessissimo i titoli del Manifesto sono degli attacchi al premier Renzi o al governo di Renzi. Questa volta è sulla privatizzazione, sulla paventata privatizzazione dell'acqua. Il governo dice sì alla cancellazione dell'obbligo della gestione pubblica dell'acqua, e il premier sottolinea il Fatto Quotidiano, ieri ha anche attaccato il referendum contro le trivelle definendolo non di buon senso. anche in questo all'interno del PD ci sono posizioni molto diverse. Accenno veloce alla Gazzetta dello Sport, che naturalmente dedica la prima pagina all'anticipo di ieri con l'Inter che ha vinto 2-1 sul Bologna, il titolo Sprinter, e poi naturalmente un approfondimento sulla giornata di oggi e per fortuna anche un grande spazio ai successi dello sci azzurro, discesa d'oro con Paris e Phil, lo sci azzurro si gioca la Coppa. Ma vediamo le pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. Dalla pagina 3 vi segnalo un'interessantissima intervista al governatore della Banca di Grecia, Yannis Stourmaras, perché abbiamo nominato Tsipras perché era presente, il capo del governo greco era presente al vertice di Parigi del Partito Socialista Europeo, ma resta aperta la questione della Grecia, a volte ne parliamo qui o nella rassegna stampa europea, non è per nulla risolta, e tra l'altro in Grecia la situazione soprattutto di chi è meno fortunato, delle classi sociali meno fortunate, continua a essere drammatica, anche perché pesa sulla Grecia comunque la restituzione di tutti i prestiti che sono stati fatti dalla BCE e dal Fondo Monetario Internazionale. In questa intervista di Vittorio Darold, il governatore della Banca Centrale, dice: a luglio Atene restituirà i 3,5 miliardi che deve alla BCE. Il sistema bancario greco ha un coefficiente buono, quello che il cosiddetto Tier 1 del 18,2%, il secondo nell'Eurozona. La crisi dei migranti in Grecia potrà costare lo 0,3% del PIL, pari a 600 milioni di euro. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, dalla pagina 19, commenti e inchieste, prosegue un intervento che inizia in prima pagina, anche questo molto interessante, di Pier Gaetano Marchetti e Marco Ventoruzzo, che sono appartengono entrambi all'Osservatorio del diritto commerciale europeo della Bocconi, e a proposito di Europa e di riforma dell'Europa, quello che propongono è un testo unico per i mercati finanziari. L'operazione non richiederebbe, secondo loro, stravolgimenti, ma metterebbe ordine nel diritto dell'Unione Europea. Dalle pagine interne del Corriere della Sera una serie di aggiornamenti sulla vicenda di Giulio Regeni, di cui purtroppo non abbiamo delle notizie certe, non abbiamo delle certezze, ecco, potremmo dire così, non abbiamo delle certezze sull'inchiesta del ragazzo ucciso dopo torture, questa sì che è una certezza, al Cairo più di un mese fa ormai, e Fiorenza Sarzanini, che è l'esperta di questioni legali del Corriere della Sera, si occupa quasi sempre di Italia, ma in questo caso appunto dà uno sguardo anche all'inchiesta che si sta svolgendo parallelamente in Italia e al Cairo. 91 pagine di depistaggi, il mistero dei vestiti di Giulio Regeni, la telefonata da un'utenza internazionale nel dossier consegnato dall'Egitto. E speriamo che, a parte la speranza che venga fatta certezza, ma poi che comunque si continui a seguire questa vicenda. Come sempre il rischio è che dopo un po' se ne perdano, appunto si perda l'energia, la voglia di seguire vicende che comunque sono così complicate, che si svolgono tra l'altro in parte in Italia e in parte in questo caso in Egitto. Dalla Repubblica un approfondimento sulle elezioni amministrative che ci saranno oggi in Germania, che come sempre, come in tutti i paesi, sono anche un test per il governo centrale. Migranti ed Europa, il voto in tre Länder è un test sulla Merkel. Rischiano i partiti di governo, sale la destra populista e la cancelliera deve affrontare la fronda interna. L'intervista al governatore della Sassonia-Anhalt, Rainer Haselhoff, che dice: è impossibile accogliere 1 milione di immigrati, così come aveva dichiarato la Merkel. La CDU in questo momento, che è il partito di Angela Merkel, perde consensi. Dalla pagina interna della Repubblica un'intervista alla soprannominata Dama Nera, cioè Antonella Accraglianò, che era la dirigente dell'ANAS, che sapete accusata e ora in carcere per tangenti, una lunga intervista che Repubblica sceglie di titolare: per quelle mazzette mi sento in colpa, ma all'ANAS c'è ancora tanto marcio. Ai PM ho detto dei rapporti tra i vertici dell'azienda e i politici. Tra l'altro sappiamo che è cronaca di pochi giorni fa un'altra ondata di arresti proprio per mazzette tangenti collegate all'ANAS, che sapete gestisce tutto il patrimonio stradale del nostro paese. Ci lasciamo un attimo però per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano, Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Un'ultima segnalazione dalle pagine interne prima di passare ai supplementi culturali. La Repubblica ci racconta con Maria Novella De Luca questo rapporto del Censis che fotografa il boom dell'industria del wellness. Il titolo: Mi piaccio come sono. Sorpresa, 8 italiani su 10 promuovono il loro corpo. Sono un po' dei dati che certificano, se vogliamo dire così, il buon senso, cioè il fatto, per esempio, che una sana relazione tra il fisico e la mente sia il vero segreto per garantire la longevità. In realtà ancora una segnalazione volevo farvi, una bellissima storia dalla stampa, la storia di Zebi, che è un labrador che va a caccia di banconote negli aeroporti, cioè chi importa della valuta superando i limiti consentiti, quel fiuto infallibile per le banconote nascoste. Il labrador, pensate, ha recuperato oltre 1 milione di euro all'aeroporto di Torino. Un'ultima, visto che abbiamo parlato di Grecia, vi segnalo dal Fatto Quotidiano un reportage di Roberta Zunini dalla Grecia: ospedali al collasso, la speranza è affidata ai volontari. Sanità senza soldi e farmaci, questa è una delle tante conseguenze dell'austerity in Grecia, vedi Atene e poi muori. Ma dicevamo i supplementi della domenica, cominciamo come sempre dal nostro, quello del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Vendersi. La citazione è questa: non venderti, sei tutto ciò che hai. Quelli della mia età o poco meno ricordano la voce roca e potente della cantante statunitense Janis Joplin, che aveva introdotto i timbri blues afroamericani nel rock bianco. Ho scelto una sua frase che suona come un monito tragico sulle sue labbra. Janis, infatti, morì per un overdose di eroina a 27 anni nel 1970, vendendosi così a questo idolo implacabile. Alla base forse c'è la sua profonda solitudine interiore, confessava infatti: sul palco faccio l'amore con 25.000 persone, poi torno a casa sola. Sono tanti i modi per vendersi, e non solo cedendo il corpo, come può accadere a una prostituta. C'è la rinuncia alla propria dignità, scegliendo il compromesso morale, bruciando l'anima nel vizio, lasciandosi andare alla deriva della disperazione. Era ancora la Joplin a dichiarare: si può distruggere il presente preoccupandosi solo del futuro. E poi il memorandum, la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, che si intitola oggi Leopardi, Manzoni, Eugenio e la sua professoressa in cammino. Tutto nasce da una lettera mandata al direttore da Adriana Paoletti, una professoressa del liceo scientifico di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, che ha parlato di un tema fatto da un suo allievo, e il direttore napoletano ha deciso di pubblicarlo tutto nella rubrica di oggi, ed è un tema dedicato a Leopardi e Manzoni, alla passione di questo giovane studente che si chiama Eugenio De Luca, per questi due grandi della poesia e della letteratura italiana. E poi c'è il commento finale di Napoletano, che appunto vi leggo proprio solo le ultime parole. Trovo strepitoso che tutto questo avvenga in un liceo scientifico di San Benedetto del Tronto, cioè questo incredibile ping pong tra passato letterario e presente, con la gioia di immergersi nel giardino della sofferenza del poeta recanatese, nella vigna di Renzo del capolavoro manzoniano, per imparare a osservare e toccare le cose di questa terra oggi, allargare la forma mentis e cominciare ad afferrare il senso profondo della vita in un mondo globalizzato, scandito dai tempi della tecnologia. Miracoli della scuola italiana. Ma il pezzo di copertina vero e proprio è dedicato in realtà al ghetto di Venezia, l'umanità del ghetto di Venezia, a 500 anni dalla nascita del primo quartiere ebraico d'Europa. Donatella Calabi, e il pezzo di Sergio Luzzato e la recensione di questo libro ne esplora la storia urbanistica e demografica, restituendoci l'humus vitale della comunità. E ancora dal domenicale vi segnalo il debutto di Nunzio Galantino, che è il segretario della CEI, che da questa domenica avrà una rubrica sulla domenica, e il debutto è Il Nobel e Francesco. C'è la vignetta di Altan e vede Dario Fo in realtà era per un dialogo con Giuseppina Manin. Questa collaborazione viene inaugurata con un intenso dialogo con l'ateo quasi novantenne Dario Fo. L'attenzione di Bergoglio agli ultimi è qualcosa di più silenzioso rispetto alle idee rivoluzionarie a cui il grande commediografo fa riferimento. E appunto Nunzio Galantino si dedica a questo dialogo, alla recensione di questo dialogo tra Dario Fo e Giuseppina Manin, che si intitola appunto Dario ed io, ed è un libro appena uscito per Guanda. Dagli altri supplementi vi segnalo, come vi dicevo, sul giornale Controcultura, che è il supplemento della domenica, questa domanda che si pone Luigi Mascheroni: esistono i classici contemporanei? Allora, se per classici contemporanei per esempio si intendono Umberto Eco e Scalfari, Mascheroni li definisce sottovalutati e maestri pochi dell'Italia di oggi. Ma vediamo, vi dicevo, l'avvenire che ha scelto proprio di aprire il giornale ricordando che sono 5 anni che c'è una guerra civile in Siria. La domenica, il supplemento cult della domenica della Repubblica di Domenica, fa lo stesso, cioè ricorda questo anniversario, marzo 2016, se l'Avvenire parlava di 270.000 morti, la domenica la Repubblica ipotizza 500.000 morti e feriti, 11 milioni di rifugiati, e lo spunto per parlarne è una mostra di fotografie di Dario Mitidieri che ha fotografato le famiglie siriane, quasi sempre con tutti i loro membri, e poi delle sedie vuote che indicano naturalmente chi non c'è più, chi ha perso la vita. Poi vi dicevo il reportage di Roberto Saviano della sua partita a scacchi con Kasparov: i dittatori non giocano a scacchi. E questa citazione molto bella secondo me di Kasparov, che dice: io so quello che hai tu e tu sai quello che ho io, parla dei giocatori davanti alla scacchiera, non so quello a cui stai pensando, ma almeno so quali sono le tue risorse, la strategia è trasparente. Ecco perché Putin preferisce giocare a poker, perché solo a carte coperte è possibile bluffare. Quelli come lui per vincere devono mentire e intimorire l'avversario, cose che sulla scacchiera non sono concesse. E poi vi dicevo, lo spunto per questo incontro è il libro di Garry Kasparov che esce il 17 marzo, che si intitola L'inverno sta arrivando, e che tra l'altro verrà presentato il 17 marzo a Roma. Sempre dalle pagine interne della Repubblica, la serie di interviste che vi segnalo sempre sta parlando di Antonio Gnoli. Questa settimana l'intervistato è Alberto Bolaffi, classe 1936, fondatore dell'azienda di famiglia, ne è il presidente. Bolaffi, naturalmente sapete, famosa soprattutto tra i collezionisti, per i francobolli. Vi spiego perché i francobolli possono essere una passione erotica: gli studi d'economia, la guerra, l'azienda ereditata dal padre, una vita per il collezionismo, dagli scritti di Einstein ai quadri di Kandinsky. Dal macro, il supplemento del Messaggero, invece un'intervista al nostro astronauta Luca Parmitano, che dice: così l'Italia sbarcherà su Marte con questo ambiziosissimo progetto, appunto, di arrivare sul pianeta rosso, con un importantissimo contributo dell'Agenzia Spaziale Europea e degli astronauti italiani in particolare. La copertina di Alias del Messaggero invece è dedicata al nuovo romanzo di Jonathan Franzen, Purity, di cui forse avete sentito parlare anche la nostra Alessandra Tedesco, sia nel suo Cacciatore di libri che ieri nel Sabato del Villaggio. Appunto, in America è uscito alla fine dell'anno scorso, qui in Italia è appena uscito. Franzen, senza grandi speranze, non è una recensione particolarmente positiva del libro, ma comunque è un libro che ha suscitato molte reazioni contrastanti. Vi segnalo, ultimissima segnalazione, la lettura del supplemento del Corriere della Sera, copertina di Alex Katz, come sempre affidata a un artista, e dall'interno un secondo me interessantissimo articolo di Donatella Di Cesare: il boomerang dell'agonismo. La competizione viene vissuta come la modalità prima di relazione, la versione ultima della razionalità moderna, ma se la vita è solo gara, qual è la sorte di chi perde? A voi la risposta. Era però l'ultima segnalazione. Un grazie a Peter Bescapè in regia, una buona domenica a tutti voi.